cielo si fa nero sopra le mie prospettive, mentre il sole che è passato ha bruciato le aspettative. È una gara senza tempo che non sembra mai finire, quando ormai sembri arrivato devi sempre ripartire. E ora più che mai non credo nei miracoli, questa vita più va avanti più sembra una corsa ostacoli, e combatto questi ipocriti che si sentono oracoli, gettandomi di testa nella fossa dei pericoli. Tempo a tempo, questo è quello che mi dicono, ma i vuoti senza amore lentamente uccidono. E giuro che non so i tuoi dei cosa prevedono, so solo che le mie speranze lentamente annegano. Quindi per stasera non credo alla fortuna, una sigaretta accesa, sguardo fisso sulla luna, per cercare lei qualcosa che colmi questa lacuna. E nel tempo dell'attesa ogni pensiero si consuma. Fare tutto questo, non sai quanto ci costa, quante volte la mia testa ha detto scendi da sta giostra, dove ogni forma di ignoranza viene messa in bella mostra, e ottiene pure la fiducia vostra. Però di tutto questo non posso farne a meno, perché senza questi suoni io mi sento sotto un treno. Stanotte il cielo è scuro, ma tornerà il sereno, che io voglio aprirvi gli occhi, non vincere Sanremo. E so che l'inverno è ancora lungo ma non smetto, ho ancora troppi sogni da realizzare nel cassetto. E adesso che mi sveglio dolorante nel mio letto, cerco di curare le ferite nel mio petto. E no, che alla fine tutto questo non mi basta. E no, che alla fine non è tutto quel che resta. No, che alla fine questo non è tutto quel che ho. E alla fine questo freddo non lo sentirò.